Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Alla fine dell'estate del 2005, la 35enne ballerina americana Tania Vlank sta guidando la sua Jeep verso il Burning Man, il festival hippie che si tiene nel deserto del Nevada. Su una curva Tania perde il controllo della vettura. 6 giorni dopo si risveglia in ospedale. È tutto buio. Il verdetto del medico non lascia speranze. Ce la farà, ma l'occhio sinistro è irreparabilmente danneggiato. Dopo un primo momento di sconforto, Tania reagisce e intraprende il suo progetto di rinascita. Voglio un occhio bionico. Voglio zoomare sulle persone senza che se ne accorgano. Voglio scattare fotografie, non voglio essere monoculare. Non voglio sbattere negli spigoli. Voglio essere trattata come un essere umano. Nell'autunno del 2008 Tania lancia un appello in rete per recuperare i soldi, molti, che servono per realizzare il suo sogno. Nell'estate del 2011 mancano $15,000. Tania allora apre un blog e riesce a raccogliere in pochi giorni gli ultimi fondi. Una webcam intraoculare wireless di nuovissima generazione sta per essere impiantata nei prossimi giorni nell'orbita sinistra di Tania. Questo è stato un evento epocale per due motivi. Il primo perché il recupero collettivo di capitale è avvenuto grazie alla rete e il secondo perché sono stati coinvolti i maggiori esperti mondiali di bionica per ridare la vista a Tania. Se volete scriverci, progress@radio24.it. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.